oppure nei centri per sfrattati, che erano dei veri e propri lager. C'erano molti centri sfrattati alla periferia di Milano e c'erano anche le cosiddette case minime, monolocali dove venivano piazzate sia le famiglie sfrattate sia le famiglie di senza casa, solitamente molto numerose. Gli affitti in città erano altissimi e incidevano fino alla metà di un salario operaio. A Milano c'erano state diverse occupazioni di case individuali che venivano puntualmente sgomberate dalla polizia. Nel 1969 la strage di Piazza Fontana e la successiva controinformazione del movimento avevano creato uno scontro frontale con l'apparato statale, percepito come il garante degli interessi dei padroni. Quindi, martedì mattina, 1 giugno 1971, 32 famiglie, che poi diventeranno 67, in gran parte di recente immigrazione, residenti in centri per sfrattati o tuguri malsani, occuparono uno stabile dello IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari, in via Tibaldi, che erano state costruite con i contributi GESCAL prelevati dalle buste paghe dei lavoratori, ma che venivano destinate alla vendita a riscatto a prezzi inaccessibili, circa 25 milioni di lire, favorendo così la speculazione. Gli occupanti erano operai della Pirelli, della Fargas, dell'Innocenti e di altre piccole fabbriche, muratori, disoccupati, molti erano lavoratori illegali, venivano da Rozzano, da Cinisello e da Crescenzago. Alcuni degli occupanti erano alla loro prima esperienza di lotta per la casa, altri, provenienti da Crescenzago, prima di questa occupazione avevano attuato lo sciopero dell'affitto. Gli occupanti dichiararono: «Abbiamo occupato queste case per avere una casa per noi e per i nostri figli, perché la casa è un diritto. I padroni ci costringono a lavorare per loro, a vivere come bestie, negandoci i diritti più elementari. Uno degli occupanti da più di un mese era costretto a dormire in macchina. A tutto questo dobbiamo dire basta. Sono i proletari che producono tutto quello che c'è sotto la luce del sole. E così, come lottiamo in fabbrica contro lo sfruttamento, dobbiamo organizzarci per prendere tutto quello che ci spetta». Ascoltiamo quindi Via Tibaldi Tarantella, del canzoniere Pisano. A Milano, a Milano, mi avevano detto vai a Milano che la trovi da lavora. Ci ho trovato uno padrone che mi ammazza fatica. Ed in cambio dello sudore, fame e freddo mi tocca fa. Ed in cambio dello sudore, fame e freddo mi tocca fa. T'avevo promesso che entro l'anno a Milano t'avrei portato. Ho trovato un lavoro ma la casa non ci sta. E coi soldi della paga me la stanno a fabbricà. E coi soldi della paga me la stanno a fabbricà. Casa l'ha pagata ma ugualmente non ce l'ha. Se l'affitto è troppo caro non c'è soldi per pagare. Visto che l'hanno pagata se la vanno a pigliare. Visto che l'hanno pagata se la vanno a pigliare. Siamo andati via Tibaldi. coi bambini, con le donne ed il pane per magnà, tutti uniti coi compagni che ci hanno aiutato. Ci siamo presi questa casa che il comune non ci dà, ci siamo presi questa casa che il comune non ci dà. Abbiamo fatto l'ambulatorio dove ognuno veniva a curare, abbiamo fatto la mensa comune dove gratis o magna. Ogni sera l'assemblea dei capi famiglia, tutti quanti, decideva come la lotta il giorno dopo andare avanti. Ogni sera l'assemblea dei capi famiglia, tutti quanti, decideva come la lotta il giorno dopo andare avanti. La polizia che ci ha fatti sgombera sotto l'acqua che cadeva coi bambini appena na. Mascalzoni, delinquenti, assassini ci han chiamato, assassini sono loro che hanno ucciso Massimiliano. Bambino di 7 mesi i padroni hanno ammazzato, con il sindaco Agnasi, polizia e sindaca. E per te Massimiliano si continua a lottare, e per te Massimiliano si continua a lottare. Gli studenti d'archi hanno dato la loro scuola per poterci rifugiare, e anche lì la polizia ci ha venuti a sgomberare. Ma hanno preso tante botte che le posso ricordare, hanno preso tante botte che le posso ricordare. Tutti in piazza a protestare, 30.000 proletari tutti insieme a gridare. Queste case sono nostre, ce le siamo prese già, noi ce le siamo prese come noi dovete fa. Le riforme dei padroni non ci possono più fregare, perché ormai l'abbiamo capito, lotta dura bisogna fa, perché ormai l'abbiamo capito, lotta dura bisogna fa. L'occupazione viene rafforzata dal via vai continuo di operai e studenti, abitanti della zona, compresi gli operai della ditta che ancora stava finendo di costruire le case, che solidarizzavano, portavano oggetti utili e lavoravano con gli occupanti. Gli stabilimenti dell'OM erano a soli 150 metri dallo stabile occupato di via Tibaldi. Il lavoro di informazione che fu fatto con continui volantinaggi sia dagli occupanti che dai compagni, soprattutto di lotta continua, fece in modo che tutta Milano venisse a conoscenza dell'occupazione. Nell'occupazione venne organizzato un asilo. I bambini presenti erano circa 150, accuditi a turno dalle madri e da alcune compagne che in un'intervista dicono: «Tenendo i bambini in comune stanno meglio loro e stiamo meglio noi. Anche i bambini lottano. Hanno fatto i cortei con noi, i blocchi stradali, hanno preparato i cartelli e sono i più attivi a raccogliere soldi». Oltre all'asilo vengono allestiti anche una mensa e un ambulatorio sanitario autogestito, quello che sarà ricordato come l'ambulatorio rosso, in cui medici e studenti rivoluzionari inseriti nell'occupazione prestavano assistenza gratuita, distribuivano medicinali e curavano i bambini, che spesso si ammalavano a causa delle condizioni malsane in cui avevano vissuto. L'ambulatorio nasceva dal rifiuto di un sistema sanitario visto come uno strumento per ingrassare le industrie farmaceutiche e i baroni della medicina, che ignoravano le reali cause delle malattie delle classi subalterne, come lo sfruttamento, l'inquinamento e l'umidità dei tuguri. Gli occupanti, in un'intervista che uscì su Lotta Continua dell'11 giugno del 1971, dicono: «È nell'uso di questi servizi che impariamo a essere comunisti. Diamo la precedenza a chi ha più bisogno e ci dividiamo le cose con una decisione collettiva. Le case sono state costruite per rinchiudere ogni famiglia dentro il suo appartamento e non farle avere contatti con i suoi vicini. Ma nella lotta non ci si appropria solo delle case, così come i borghesi le hanno volute, per tenerci divisi. Le si trasforma, la casa diventa un centro di organizzazione, la vita in comune prende il sopravvento su quella individuale». Queste strutture intendevano prefigurare un'organizzazione comunitaria della vita in cui i bisogni collettivi prendevano il sopravvento su quelli individuali. Il martedì e il giovedì successivo vennero fatti dei blocchi stradali con le donne e i bambini in prima fila. I blocchi stradali davanti all'occupazione vennero fatti spesso per poter parlare con gli automobilisti e la maggior parte delle volte erano fatti a singhiozzo. L'ultimo giorno di occupazione il blocco si protrasse a oltranza. Gli automobilisti non si arrabbiavano, anzi molti di loro davano soldi per sostenere la lotta. Mercoledì 2 giugno fu organizzata una manifestazione a Porta Ticinese, dove si teneva la festa del Naviglio e si sapeva che doveva essere presente il sindaco Aniasi. In testa al corteo c'era uno striscione su cui era scritto «Casa occupata». Il corteo passò lungo il Naviglio, gridando slogan come «Case subito», «Case gratis a tutti i proletari», «Nelle baracche ci vadano i padroni». Ma Aniasi non c'era, quindi gli occupanti salirono sul palco occupandolo per qualche minuto. Poi il corteo ripartì per tornare alle case occupate. Una ventina di compagni andarono in comune, dove c'era la riunione del consiglio comunale, ma nessuno volle ascoltarli. Allora venne occupata una sala del comune dalle 17 alle 24. Al ritorno in via Tibaldi l'assemblea decise la continuazione della lotta, ricordando che l'occupazione di via McMahon, di cui abbiamo parlato in una precedente trasmissione di Gioia e Rivoluzione ma anche Sconfitte, avevano vinto ed avevano ottenuto le case. Venne anche deciso di organizzare una grande manifestazione. Venerdì pomeriggio in via Tibaldi arriva Catalano, mandato dal comune e dallo IACP. Un funzionario noto perché smistava i proletari nelle baracche dopo aver loro promesso le case. Catalano ottenne l'elenco delle famiglie occupanti, ma venne sottoposto a un processo popolare in cui venne dimostrato come fosse un servo dei padroni, un imbroglione e uno sfruttatore. Venne quindi invitato a lasciare un'offerta consistente alle famiglie occupanti. Solo allora Catalano poté andarsene. Un corteo lo accompagnò lungo la strada del ritorno, che gridava «La casa si prende, l'affitto non si paga». Un bambino in testa al corteo teneva un cartello su cui era scritto «Sono Catalano, servo dei padroni». Verso le 20:30 arrivò un commissario di polizia che venne accompagnato dagli occupanti che gli gridavano «Servo del padrone, vogliamo le case!». Il PC sull'Unità si dichiarò contrario alle occupazioni, definendole gesti di gente esasperata e strumentalizzata. In una conferenza stampa il comitato di occupazione rispose: «Non ci strumentalizza nessuno. Le cose le decidiamo noi. Qui ci sono solo compagni comunisti che ci aiutano e tantomeno siamo esasperati. La nostra azione è frutto di una grande maturità politica. Sappiamo che questo è l'unico modo per avere una casa. In assemblea si decidono le forme di lotta, l'organizzazione della vita in comune dentro la casa, i bisogni più urgenti a cui bisogna dare la precedenza. Tutto quello che si fa è stato prima discusso da tutti». Ascoltiamo ora Via Tibaldi di Dario Fo, dallo spettacolo Morte e Resurrezione di un pupazzo. Si sono riuniti, si sono messi d'accordo nella nottata per via della casa. Finalmente sta legge le è passata. Deve essere una legge molto buona, per forza è così. Si è stenuto perfino il PG. Vedete, si è stenuto il PG, guarda che deve essere una legge. Noi barracati ci abbiamo fiducia che fra qualche momento ci arriva l'alloggiamento, perché adesso è una vita grama, vita da troia, vita da puttana. Piove, siamo in 10 dentro la tana, piange il bambino, c'ha la tosse, ci manca il chinino e la moglie c'ha l'asiatica, che da noi è arrivato un po' in ritardo. La nonna è in coma, la zia la trasù, nel senso che vomita, insomma, perché sta poco bene di stomaco. Poi c'è il gatto che ha fatto i gattini, ma l'altra notte l'ha riempito di botte la gatta. Per lo spavento gli è andato via il latte, pensa tutti i gattini senza il latte. Poi baraccati, ci abbiamo fiducia che fra qualche momento ci arriva l'alloggiamento, ma passa un mese, ne passano tre, la nostra fiducia la vada via in pe. Facciamo fagotto, tiriamo sui stracci, porca puttana, di casa ce n'ho più di 100 e tutti disperati ci siamo entrati, mamma, bambini, gatti, gattini, ci siamo stravaccati due materassi per uno, 30 coperte, è un po' un accampamento, la luce non c'è, non c'è il riscaldamento, ma confronto prima, è una cosa... Basta! Figli di troia, si sente la sirena della polizia che arriva, piange la mamma, il bambino, la zia tra sé. Fuori, sgombrare, arriva la pula, si hanno le facce cattive, fuori di qui! Sti preti barbuni, a forza dei puntini, ci sbattono giù, ci sbattono fuori con i materassi, neanche un po' di rispetto, almeno per i gatti, di quattro gattini! Me ne ammazzano tre. Ah, alla mia donna che fa gli 80 anni a Natale, l'hanno fatta andare giù a rotoloni per le scale, tutta imbolornata è arrivata giù come un fachino si è trovato incrociata. Ah, al mio bambino, povero nano, con una trellata gli hanno spaccato una mano, ce l'hanno caricato tutti su una corriera, tutti schiacciati, come sarà che ce l'ho parlato dentro le baracche, al dormitorio dei barbuni. Adesso silenzio e fate i buoni, se no ritorniamo coi bastoni a patata, patata! Arrivano le suore, ci fanno pregare, e noi tutti in coro le mandiamo a cagare nei loro cessi con i crocifissi. Facciamo fagotto, tiriamo sui stracci. Porca puttana, attraversiamo la città senza la metropolitana e arriviamo all'università. No, non per studiare, per andarci ad abitare. Ci sono una squadra di studenti che dentro la scuola ci hanno alloggiati, più di 100 disperati, con le mamme, i bambini, i gatti, i gattini. E c'è perfino un cane bastardo che fra l'altro deve essere un po' sordo, è andato già tre volte sotto il tram. Ah! Bastardi, boia, figli di troia, si sentono ancora le sirene della polizia, piange la mamma, piange il bambino, la zia la trasù. Fuori, sgombrare un'altra volta la pula, che facce cattive, fuori qui, sti briti barbuni a forza dei puttini, ci vogliono fare sgombrare, tirano mucchio e candelotti, noi tiriamo i sassi, c'è un fumo boia, soffocano tutti, ci piangono gli occhi, la mia zia la trasù, c'ho il bambino che c'ha il mal di cuore, è diventato smorto, presso un dottore, signor poliziotto, ci abbia pietà, non si fa in tempo, ormai è già morto, un morto di fame in meno da sfamare. Il signor commissario ci grida, assassini, ci dite quando fate le occupazioni per l'alloggio o senza tetti incoscienti, lasciateli a casa i bambini, ma come lasciamo a casa i bambini se non abbiamo la casa? Quando non si hanno le case, non si fanno le occupazioni, e i bambini non si fanno. Non si fanno i bambini quando si vuole avere una casa, altrimenti i bambini si lasciano a casa e non si va a prendere le case. Domenica 6 giugno, alle 6 di mattina, in via Tibaldi arrivò un enorme schieramento di forze, formato da 2.000 poliziotti e carabinieri con blindati, due idranti e una ruspa, un vero esercito. Il servizio d'ordine ripiegò sulla retrostante massicciata della ferrovia. Lo scontro frontale era impraticabile. Di fronte a un tale spiegamento di forze era impossibile resistere. Vennero erette delle barricate che però vennero facilmente rimosse da poliziotti e carabinieri. A causa dello sgombero morì un bambino, Massimiliano Ferretti, di 7 mesi. Era figlio di una coppia di proletari immigrati, Ugo Ferretti e Silvana Salice. Massimiliano era nato con un grave vizio cardiaco, probabilmente a causa dei calci ricevuti dalla madre durante un precedente scontro con la polizia, ed era anche affetto da frequenti bronchiti. La sua salute era stata minata dalle condizioni del Tugurio, umido e infestato dai topi, in cui la famiglia viveva in via Gratosoglio. Era stato all'ambulatorio rosso che a Massimiliano Ferretti i medici avevano diagnosticato il vizio cardiaco e gli avevano fornito le cure necessarie, portandolo ad un temporaneo miglioramento, prima che durante lo sgombero rimanesse esposto per ore al freddo e alla pioggia. Morì poco dopo il ricovero d'urgenza alla clinica Mangiagalli. Il padre di Massimiliano, originario di Ascoli Piceno, era rimasto orfano di madre da piccolo. Fu mandato quindi in seminario dal padre, ma presto finì al riformatorio, dove rimase fino alla maggiore età. A 21 anni rubò una bambola, un orologio e 5.000 lire e un televisore. E per questi furti rimase in galera per 12 anni, dal 1959 al 1967. Poi venne rinchiuso in una casa di lavoro per 2 anni. Mentre era in carcere, conobbe, tramite una rubrica di Cuori Solitari, Silvana, originaria di Foggia. Si erano sposati a Foggia nel gennaio del 1970 e avevano un altro figlio più grande, Fabio, che nel giugno 1971 aveva 22 mesi. La coppia era emigrata a Milano in cerca di lavoro, ma si era ritrovata a vivere in condizioni di estrema indigenza. Pagavano un affitto altissimo, 23.000 lire per un tugurio. La paga mensile di un operaio era allora di 100.000 lire. Dopo lo sgombero di via Tibaldi, un prete, Don Ferdinando Tagliabue, De Fabiani, caporedattore del quotidiano cattolico Avvenire, e un monsignore molto vicino all'arcivescovo, cercarono di convincere Ugo a firmare una lettera contro Lotta Continua, accusandola di aver strumentalizzato la tragedia, a rinunciare all'autopsia sul corpo del figlio, a chiedere un funerale privato e religioso in cambio di una casa, un posto di lavoro come fattorino in una banca e la somma di 50.000 lire e il condono dei 2 anni di casa di lavoro che doveva ancora scontare. Ugo Ferretti inizialmente cercò di prendere tempo, ma in seguito rifiutò e denunciò pubblicamente il ricatto durante una conferenza stampa, dichiarando che il figlio avrebbe avuto un funerale proletario con le bandiere rosse. Al funerale di Massimiliano uno degli occupanti intervenne e disse: «Con Massimiliano i padroni credevano di aver vinto, contro la sua debolezza, contro la sua povertà hanno creduto di avere buon gioco. Oggi siamo qui per dimostrare che anche con Massimiliano i padroni hanno perduto. Prima ancora che nascesse i calci dei poliziotti nel ventre della madre incinta, poi il freddo e la miseria dei ghetti, in cui gli speculatori e i sindaci rinchiudono i proletari, lo hanno fatto venire al mondo debole e malato. E ancora la fame, la mancanza di medicine e infine lo sgombero violento della polizia hanno stroncato definitivamente la sua vita. Ma ora al suo posto ci sono molti altri, pronti a continuare la lotta, a chiedere e a fare giustizia di coloro che hanno provocato la sua morte, a raccogliere quanto Massimiliano, con i suoi 7 mesi di vita dura, faticosa, sofferta, ha indicato la volontà dei proletari di lottare per essere felici, liberi e uguali. Per questo Massimiliano è un nostro fratello, è un nostro compagno di lotta, perché ci è stato ucciso mentre intorno a lui 60 famiglie operaie, uomini, donne, bambini, vecchi, costruivano un modo nuovo di vivere, organizzarsi, imparare, giocare, amare. Capivano e facevano capire che l'egoismo e l'individualismo sono conseguenze dello sfruttamento capitalistico, della violenza dell'uomo sull'uomo. Dimostravano concretamente che il comunismo è possibile, che è la sola soluzione all'oppressione e alla miseria. Dopo lo sgombero, gli uomini vennero caricati su un autobus e donne e bambini su altri due. Nel frattempo affluirono i compagni in via Tibaldi. I pullman con gli occupanti partirono in 3 direzioni diverse per ordine del vice sindaco Borruso. Il pullman degli uomini arrivò in questura, dove vennero identificati e denunciati, e poi gli venne fatta una proposta. «Noi vi paghiamo un pranzo e un biglietto per tornare al sud e vi rilasciamo». Ovviamente gli occupanti risposero che non avrebbero mai accettato simili proposte e intonarono bandiera rossa. I due pullman con le donne e i bambini arrivarono a 2 case di riposo, quella di via San Virgilio e quella di via Panigada. Le donne si rifiutarono di scendere e occuparono i pullman per diverse ore. Arrivarono gli studenti che sostenevano la lotta portando cibo e altre cose necessarie per i bambini. 3 compagni furono fermati dalla polizia senza motivo. Zagari, che comandava le forze di polizia, cercò di far ripartire i pullman promettendo di far ricongiungere le famiglie. Ma le donne bloccarono subito dopo uno dei pullman e poco dopo l'altro e scesero con i bambini e andarono con i compagni intervenuti alla sede del manifesto che fu messa a loro disposizione. Il commissario Zagari allora minacciò: «Se tornate alle vostre baracche, rilasceremo i vostri mariti». Dopo arrivarono anche gli uomini che erano stati rilasciati. Venne fatta un'assemblea degli occupanti e dei compagni, in cui venne deciso di trascorrere la notte nella facoltà di architettura di via Bonardi, all'interno di Città Studi, per poi riorganizzarsi e decidere le future mobilitazioni e le forme di lotta. Su invito del collettivo autonomo di architettura che in accordo con gran parte del corpo docente portava avanti l'occupazione della facoltà. Fin dal gennaio 1967 il Politecnico di Milano era stato occupato in maniera quasi permanente e si svolgevano seminari sui temi dello studio e degli sbocchi professionali e molti professori erano stati coinvolti. Più che un'occupazione era un'autogestione. Per questo si realizzò una convergenza quasi automatica con l'occupazione di via Tibaldi. Lotta continua, insieme agli occupanti, ad architettura realizzò un'infermeria, un asilo e una mensa con un'enorme cuscina economica. Furono preparate le vie di fuga perché la polizia aveva iniziato ad assediare l'università. Ed ora ascoltiamoci la ballata di via Tibaldi di Antonio Virgilio Savona, uno dei componenti del quartetto Cetra. Erano in tanti venuti a Milano per sopravvivere e per lavorare e si erano accampati in vecchie catapecchie, anche pagando la gescal. Ma un giorno seppero che in via Tibaldi, o i contributi pagati da loro, facevano una casa, ma solo per i ricchi, di quelle con i tripli servizi. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Quando una voce nei ghetti operai disse: prendiamoci quello che è nostro, la casa fu occupata in segno di protesta contro i padroni e la gescal. Chiusi lì dentro con donne e bambini, dandosi aiuto alla meglio tra loro, provvidero alla mensa e all'ambulatorio, fin tanto che scoppiò un pandemonio. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Furono presi da circa 2000 baldi ragazzi della polizia, dovettero sloggiare col solito ricatto, minaccia di foglio di via. Si ritrovarono in mezzo alla strada, con i più piccoli stretti sul petto. La pioggia quel mattino veniva giù a dirotto, si seppe poi che un bimbo era morto. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Gli uomini che erano capofamiglia furono tutti portati in questura, le donne di bambini di quei poveri cristi dovevano andare agli ospizi. E fu così che i compagni studenti li accolsero tutti ad architettura, ma per i poliziotti non era il luogo adatto, di nuovo fu sferrato un assalto. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Furono tutti con garbo scacciati, donne, bambini, studenti e docenti, trattati con riguardo coi gas e i manganelli, di via fate bene fratelli. Dopo 2 giorni tornarono ancora e la battaglia fu ancora più dura, braccati per le strade, stipati in cellulari e poi uno per uno schedati. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Di quel bambino era crepato e all'obitorio tenuto in attesa fu data la notizia che il padre, guarda caso, era un bandito, un evaso. Ma dalla stampa fu poi precisato che quell'evaso nel fondo era buono. In lettera firmata aveva dichiarato: dai rossi sono stato incastrato. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Dopo si seppe la giusta versione, che venne dalla controinformazione. Si seppe che il messaggio fu scritto dalla mano di un prete o di un parrocchiano. E venne a galla che quel poveretto fu ricattato e a firmare costretto. Gli dissero: ti diamo la casa ed il condono, a patto che tu firmi e stai buono. Evviva l'Italia, l'Italia dei santi, dei grandi poeti e dei naviganti. Uno dei membri del collettivo autonomo disse in un'intervista: il collettivo autonomo di architettura si era allontanato dal movimento studentesco di Capanna, rivendicando la propria autonomia. Aveva stilato un proprio documento, detto il documento dei 31, che contestava una serie di atteggiamenti di gestione dell'occupazione di architettura e della sua autogestione. Tutto questo è durato fino al settembre 1972, quando il collettivo è confluito in lotta continua. Il gruppo, a cui guardavamo con più interesse, venimmo a conoscenza dell'occupazione di Via Tibaldi perché a quei tempi si sapeva tutto di tutti, tutto quello che succedeva in città. C'era una rete di informazione che andava al di là delle comunicazioni ufficiali, attraverso contatti interpersonali. Comunque l'occupazione di Via Tibaldi aveva avuto un ampio riscontro sulla stampa. Il collettivo autonomo di architettura assunse un ruolo di rilievo quando Via Tibaldi fu sgomberata. La Procura della Repubblica ordinò lo sgombero immediato della facoltà di architettura, nonostante che il preside della facoltà di architettura, Portoghesi, dichiarasse che la facoltà era disposta a ospitare le famiglie sgomberate. Alle 17 arrivarono ad architettura 3.000 fra poliziotti e carabinieri, che durante la notte attaccarono la facoltà. Iniziarono le prime cariche all'esterno. La battaglia continuò fino alle 2 di notte. C'era chi teneva gli scontri all'esterno mentre gli altri se ne andavano dalle vie di fuga predisposte. Non ci furono arresti perché quando i poliziotti riuscirono a sfondare non trovarono nessuno dentro la facoltà. Lunedì 7 marzo, la mattina, le famiglie sgomberate si riuniscono in assemblea alla casa dello studente. Nel pomeriggio gli studenti dei gruppi rivoluzionari e le famiglie sgomberate rioccupano la facoltà di architettura con l'appoggio di una parte dei docenti e del preside, che decretò la riconversione di tutta l'attività accademica in un unico seminario monografico che ha come tema il problema della casa nell'hinterland milanese. Inoltre reclama la presenza degli occupanti in quanto consulenti scientifici di detto seminario. Uno degli occupanti in un intervento al seminario disse: «Molti di noi hanno fatto solo la terza elementare. Queste cose però siamo capaci di insegnarle. Siamo capaci di spiegare come vivevamo al sud nelle baracche e nella miseria, come viviamo oggi al nord nelle baracche e nella miseria. Siamo finalmente capaci di usare queste aule moderne e pulite che noi non sognavamo nemmeno e che i nostri figli non avrebbero mai visto. Le usiamo per mangiare e dormire, meglio di quanto facevamo a casa nostra. Le usiamo per vivere insieme e soprattutto discutere e organizzarci insieme a tutti gli altri proletari, anche agli studenti, a quegli studenti che vediamo al nostro fianco nella lotta e con i nostri stessi obiettivi, non solo a parole, a volantini o a manifestazioni. Il 9 giugno, alle 5 del mattino, il seminario fu interrotto dall'intervento della polizia, che circondò l'intera zona di Città Studi con 3 cerchi concentrici. Polizia e carabinieri invasero la facoltà di architettura mentre Portoghesi stava tenendo una lezione sulla questione delle abitazioni. Vengono fermate oltre 600 persone, tra cui studenti, professori e l'intero consiglio di facoltà. Ci furono molti feriti. Alla fine furono convalidati 20 arresti. Le famiglie furono riportate nei paesi da cui provenivano. Sempre nell'intervista, il compagno del collettivo autonomo di architettura raccontò: «Ricordo l'occupazione militare di Città Studi da parte della polizia e un nuovo sgombero che ha coinvolto tutti i docenti, che quella notte erano stati chiamati a presidiare la facoltà. Era stata indetta un'assemblea permanente a cui partecipavano anche i docenti. Quando poi è intervenuta la polizia, il professore di turno ha affermato che si stavano tenendo lezioni sull'edilizia popolare e che le forze dell'ordine stavano interrompendo un pubblico servizio. I poliziotti sembravano fuori di testa, urlavano, lanciavano lacrimogeni, spaccavano macchine e moto, un isterismo pazzesco. E poi praticamente sono entrati dal portone. Forse il capo dei bidelli, che era un ex carabiniere, aveva aperto l'entrata principale». Nel frattempo, anche nelle altre città italiane, si organizzano assemblee e cortei di studenti e famiglie di senza casa. A Messina, un corteo di famiglie senza casa ed occupanti contesta una manifestazione della sinistra ufficiale, che ha per tema la riforma della casa appena varata in Parlamento. I manifestanti gridano: Milano, Roma, Messina, stessa lotta. E quindi ascoltiamoci Da Via Tibaldi di Diego De Palma. Alla Camera è passata la riforma della casa. Finalmente con la lotta si è raggiunto un po' qualcosa e deve essere una legge veramente buona, sì. Figuriamoci che al voto si è astenuto anche il PC. figuriamoci che al voto si è astenuto anche il PC. Martedì, 1 giugno, 120 proletari hanno preso possesso di due case popolari. Popolari mica tanto, quasi lusso invece sì, anche se le han costruite quelli dell'IACP. Ecco dunque dove vanno i soldi dei lavoratori: o le case non le fanno, o le fanno pei signori. Ma alla Camera è passata la riforma della casa, finalmente con la lotta si è raggiunto un po' qualcosa, e deve essere una legge veramente buona, sì. Figuriamoci che al voto si è astenuto anche il PC. Figuriamoci che al voto si è astenuto anche il PC. Giovedì 3 di giugno, le famiglie al comune protestando hanno ottenuto qualche assicurazione. Gli hanno detto che al più presto si sarebbero riuniti per trovare la soluzione al problema dei baraccati, soluzione che è arrivata la domenica mattina, tutti fuori sotto l'acqua che la polizia è vicina. Soluzione che è arrivata la domenica sul presto, per le donne i bimbi il latte e per gli uomini l'arresto. E intanto che infuriava l'acquazzone, sotto quell'acqua stavan le persone, anche un bambino che malato al cuore, costretto dai pulè, ci deve stare. E l'acqua cade per più di mezz'ora, e restan quelle donne fuori ancora, e i loro figli imparan molto presto che sporco mondo sia per loro questo. E finalmente li fanno salire su un autobus e via li fanno andare. Ma quel bambino che è malato al cuore, troppo ha sofferto e nella notte muore. Ma non basta un bimbo morto alla furia criminale scatenata da coloro che non sanno che sfruttare. Gli sfrattati la dovranno ricordare quella notte, una notte di dolore, una notte d'aspre lotte. Verso sera sono andati tutti all'università, li hanno accolti gli studenti che li han sistemati là, ma il questore si presenta quasi verso mezzanotte, o si sgombran le famiglie o si piglian tante botte. Ma la gente si riunisce e decide di lottare, di resistere là dentro per non farsi sgomberare. Il questore si scatena coi suoi mille poliziotti ed appesta tutta l'aria con decine di candelotti. Un compagno che era dentro viene colpito proprio mentre disperato resisteva da una bomba al basso ventre. 4 ore di battaglia e i feriti e gli arrestati sono di più ogni minuto. Ma i locali son sgombrati. Lunedì 7 giugno, chi compra l'unità legge violenti scontri all'università, cariche candelotti contro lotta continua, ancora avventurismo tra le masse si insinua. Pochi provocatori che forse son pagati han strumentalizzato il dramma dei baraccati. Quella notte i compagni hanno visto molto chiari quali sono gli alleati, quali sono i traditori. Han capito che chi lotta per la vera rivoluzione trova il revisionismo alleato col padrone, trova il revisionismo alleato col padrone. Tutti quanti la dovremo ricordare quella notte, una notte di dolore, una notte d'aspre lotte, una notte di battaglia con la legge del padrone, una notte sulla strada che va alla rivoluzione, una notte sulla strada che va alla rivoluzione. Le famiglie degli occupanti riescono il giorno successivo a trovare rifugio presso la sede delle ACLI, che diventa il nuovo centro di organizzazione della lotta. Il 12 giugno si svolse una grande manifestazione cittadina, indetta dall'Assemblea Permanente dei Senza Casa di Via Tibaldi, a cui parteciparono circa 30.000 persone, a cui aderirono 32 organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, a sostegno della lotta per la casa, che riempì le strade da Loreto a San Babila. Il corteo vede la partecipazione unitaria di operai, studenti e famiglie occupanti. Fu anche una manifestazione antifascista. Uno slogan molto gridato era «Maggioranza silenziosa, ti faremo tacere per sempre», urlato ancora più forte in piazza San Babila, luogo di ritrovo dei fascisti milanesi. Di fronte all'enorme dimostrazione di forza del movimento, nonostante la pesantissima repressione, il comune e lo IACP furono costretti a cedere. La casa venne assegnata non solo alle 67 famiglie protagoniste della lotta, ma anche alle 140 famiglie confinate ancora nei centri sfrattati. Le famiglie ricevettero inoltre 500.000 lire a titolo di indennizzo per la copertura delle spese sostenute e l'affitto gratuito per i primi 6 mesi. Le autorità furono costrette a rilasciare tutti gli arrestati durante gli scontri avvenuti a Città Studi e presso la facoltà di architettura. Quando i dirigenti della polizia provarono a rilasciare i membri del consiglio di facoltà trattenendo gli altri, il decano del consiglio di facoltà dichiarò che sarebbe stato l'ultimo a lasciare la questura. Allora il questore dovette cedere e furono rilasciati tutti. Ma 8 docenti, tra i quali il preside Paolo Portoghesi, che avevano organizzato il seminario permanente, furono espulsi da architettura per aver sperimentato con gli studenti e ospitato degli sfrattati, e il rettore del Politecnico ordinò la chiusura della facoltà di architettura. Sull'otta continua del 26 giugno 1971 possiamo leggere: «I proletari di via Tibaldi hanno vinto. Essi hanno mostrato a tutti cosa vuol dire prendersi la città. I proletari di via Tibaldi si sono presi la città perché hanno scelto di essere protagonisti, punto di riferimento, momento di confronto. Si sono presi la città imponendosi alla coscienza del proletariato milanese, facendo vedere come si può e si deve fare. Si sono presi la città facendo saltare gli schemi, analisi, gli interessi di vari raggruppamenti politici e della sinistra rivoluzionaria, coinvolgendo e travolgendo organizzazioni integrate e revisioniste. Nessuna lotta prima di via Tibaldi aveva saputo colpire così efficacemente la politica delle riforme, la logica riformista. L'occupazione di via Tibaldi dimostrò, come era già avvenuto in fabbrica, che con l'azione diretta l'unità degli operai, studenti, proletari e immigrati, costruendo la solidarietà intorno alla lotta, era possibile vincere. Non c'erano solo gli operai e gli studenti, ma c'era un intero sistema che attraversava la città che poteva essere conquistato. Per chi volesse approfondire, consigliamo la lettura di A cura de La Barricata. Prendiamoci la città, una storia così non dovrebbe finire mai. Di Guido Viale, Prendiamoci la città. Gli articoli su lotta continua dell'11 e del 26 giugno 1971, scaricabili dal sito web ostuniribelle.it. C'è anche un documentario realizzato dal collettivo Cinema Militante milanese dal titolo La città del capitale, visibile su YouTube. Finisce qui anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!